rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato pre-elettorale a tutti. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei temi europei. Naturalmente il tema che tratteremo a questo punto, soprattutto nella rassegna di sabato prossimo, che è quella della Brexit, perché il giovedì 23 giugno, come credo tutti ormai sappiano, nel Regno Unito i cittadini voteranno per appunto la Brexit, cioè l'uscita, la exit dal Regno Unito, Britain. C'è un grande equilibrio apparente nei sondaggi, perché sappiamo che l'incognita sono gli indecisi. Tra chi vuole remain, restare, e chi vuole leave, andarsene. Ma come dicevo, vedremo un paio di articoli che sono usciti nella scorsa settimana, ma naturalmente l'attesa è per gli articoli che usciranno dopo i risultati. E quindi iniziamo da un altro argomento che riguarda però sempre una consultazione che c'è stata, la consultazione del 5 giugno in Svizzera. Internazionale ha pubblicato un'analisi dell'Independent, guarda caso proprio un quotidiano del Regno Unito, intitolata L'ora del reddito di cittadinanza. Questa proposta è stata in realtà bocciata dai cittadini svizzeri, che amano molto essere consultati. Ci sono tantissimi referendum quel giorno, erano stati chiamati a pronunciarsi anche su moltissimi altri argomenti. Questa del reddito di cittadinanza era una proposta molto articolata, che prevedeva appunto un reddito base oltre 2.000 franchi, ma anche poi l'eliminazione contestuale di tutta una serie di misure di welfare. E allora quello che scrive l'Independent è che non bisogna liquidare l'idea così in fretta, anche se appunto gli svizzeri per ora l'hanno fatto. La provincia canadese dell'Ontario sta pensando di sperimentare un sistema simile, così come la Finlandia e le città olandesi di Utrecht. La Finlandia non fa parte dell'Unione Europea, ma ha molti accordi con l'Unione Europea, mentre naturalmente l'Olanda sì, è parte dell'Unione Europea. I cittadini europei e nordamericani e i loro governi stanno valutando seriamente questa possibilità. Esiste una reale volontà di stravolgere i nostri sistemi finanziari e il nostro modello lavorativo, e non c'è da stupirsi se consideriamo quanto questo modello sia cambiato negli ultimi 20 anni a causa delle innovazioni tecnologiche. Per la Svizzera il momento non era ancora arrivato, ma sarebbe da ingenui credere che non arriverà mai. E quindi insomma vedremo se nei prossimi anni verranno fatte proposte articolate su questo. In Italia sappiamo, in Parlamento c'è una proposta del Movimento 5 Stelle su questo tema. Ecco, a proposito di Movimento 5 Stelle, sappiamo che domani invece in Italia si vota in moltissime città per il ballottaggio per i sindaci. Anche su questo c'è stato molti articoli sui giornali, li abbiamo citati anche settimana scorsa. Oggi è meglio non farlo, perché è difficile mantenere la par condicio a cui che ci è chiesta per questo periodo preelettorale. Comunque anche su questo sicuramente vedremo molti commenti nella settimana prossima. Quello che invece possiamo un po' commentare, anche alla luce della seconda vittoria della nazionale di venerdì, sono gli europei di calcio. L'Observer nel Regno Unito ha pubblicato un lungo articolo intitolato Alla vigilia degli europei, anche questo lo trovate su Internazionale, che si intitola La Francia nel pallone, perché come sapete, anche se gli europei sono un grande evento che quando si riesce porta dei vantaggi, se non altro d'immagine, al paese che lo ospita, in realtà la Francia in questo momento è alle prese anche con tutta la mobilitazione contro la riforma del lavoro, che è stato definito il Jobs Act alla francese, che non si ferma, e ci sono anche, abbiamo sentito, tutti i problemi legati agli hooligans e le polemiche che sono seguite, perché si è accusata la polizia francese, i servizi segreti francesi, il ministero degli interni francesi di non essersi adeguatamente preparati contro questa minaccia degli hooligans, forse perché troppo concentrati a sventare invece l'altra minaccia, naturalmente molto più grave, che è quella del terrorismo. Per quanto riguarda l'Europa, anche per cambiare un pochino argomento, l'Economist ha invece pubblicato un'inchiesta su uno scandalo che sta scuotendo la Romania. È stato rivelato che i disinfettanti usati in centinaia di ospedali romeni erano stati diluiti e naturalmente quando succedono queste cose, quando poi dietro c'è corruzione, e sappiamo che siccome la sanità in quasi tutti i paesi del mondo è la principale voce di spesa di budget di uno Stato, ha dei costi enormi, appalti enormi, giro di denaro enorme, e quindi spesso anche appunto corruzione, e in questo caso appunto è successo in Romania. Per tornare un po' alle cose italiane, Le Monde, che segue da sempre, chi ascolta questa rassegna lo sa, noi citiamo spesso gli articoli che questo quotidiano di sinistra francese, progressista, potremmo dire, ha pubblicato in passato sul nostro primo ministro, che è il più giovane in questo momento in Europa, quindi lo ha sempre seguito e lo fa ancora e parla non delle elezioni che dicevamo ci saranno domani, ma del referendum che ci sarà a ottobre sulla riforma costituzionale. E Le Monde cerca di spiegare ai suoi lettori francesi, noi purtroppo, anche se mancano così tanti mesi, abbiamo sentito di tutto già su questo referendum. Invece, appunto, i francesi giustamente un po' meno, però Le Monde, forse cogliendo tutto questo dibattito che c'è in Italia, spiega che decidendo di giocarsi il suo mandato sul referendum confermativo, Renzi è riuscito a coalizzare tutti i suoi nemici. E in realtà questo fronte anti-Renzi avrà un test, ma questo lo possiamo dire tranquillamente, senza paura di violare alcuna par condicio. Sicuramente le elezioni di domani saranno un test anche su questo. A proposito di elezioni, ce ne sono delle altre in Francia, si terranno il 26 di giugno e in questo caso sapete che sono elezioni anticipate perché dopo le ultime elezioni politiche non si è riusciti di fatto a formare un governo, anche per il ruolo che ha avuto il partito che molti accostano al Movimento 5 Stelle, che è quello partito Movimento, che è quello di Podemos. El País ha fatto un'analisi di uno degli ultimi dibattiti televisivi, anche lì ci sono, anzi forse sono con una formula un pochino più avanzata di quella che c'è in Italia, anche se anche in Italia da questo punto di vista sta cambiando qualcosa con le molte sfide dirette che abbiamo visto tra i candidati sindaci negli ultimi giorni. In ogni caso, El País spiega che il premier uscente Mariano Rajoy, che è un conservatore, che ha dovuto appunto prestarsi a questo dibattito che viene definito un fuoco incrociato dei suoi tre rivali, è in realtà uscito vivo. Questa è l'opinione di El País, ma anche il risultato di un sondaggio che è stato fatto subito dopo. Il 36% degli intervistati ha detto che il migliore è stato il leader di Podemos, appunto Pablo Iglesias, poi il 23% si è invece espresso a favore del presidente di Ciudadanos, che è un altro movimento, questa volta più di centrodestra, ma altrettanto di rottura rispetto ai partiti tradizionali, Albert Rivera, e poi il 21% invece ha pensato appunto che Rajoy, tutto sommato, non fosse uscito del tutto sconfitto, all'ultimo posto il segretario del Partito Socialista Spagnolo, Pedro Sanchez. Per quanto riguarda invece El Mundo, anche in questo caso c'è stato un sondaggio e secondo i lettori di El Mundo, che però precisiamo è un giornale di centrodestra, mentre El País è un giornale, diciamo così, di centrosinistra, i lettori quindi hanno dato per il 36% la vittoria a Rajoy. Insomma, siccome Rajoy come leader di uno dei partiti tradizionali, esattamente come succede in Italia e in tanti altri paesi, è in crisi rispetto a questi movimenti, i due principali quotidiani spagnoli sostengono che appunto è uscito vivo da questi dibattiti televisivi. Torniamo un attimo sulla Brexit, perché abbiamo detto tantissimi sondaggi nella scorsa settimana, tra l'altro ce n'è stato uno che per la prima volta dava in vantaggio quelli che vogliono andarsene. Poi, come sappiamo, c'è stato l'orribile attentato di giovedì alla giovane parlamentare, giovane insomma, la parlamentare di 41 anni, che forse cambierà qualcosa, impossibile prevederlo. In ogni caso, oltre a quei sondaggi che riporta Financial Times, la BBC, ce n'è uno che viene riportato anche da tutti i siti, che è stato riportato da tutti i siti ieri, e che è quello in realtà dei bookmakers. E molti pensano che con la tradizione che ha la Gran Bretagna di scommesse e scommettitori, la tradizione, l'esperienza, il parere dei bookmakers forse valga più di quello dei sondaggisti. E secondo i bookmakers, chi vuole restare, chi voterà per restare, è in realtà il 60% degli elettori. Vedremo, perché la maggior parte dei quotidiani britannici, dopo diciamo quelli non i tabloid, non quelli che cercano lo scandalo, ma quelli che, come tutti i giornali dovrebbero fare, invitano a ragionare, e in testa a questi c'è Financial Times, si sono schierati nella settimana scorsa per il Remain, sottolineando, elencando ancora una volta tutti i rischi economici, soprattutto che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea porrebbe per i suoi cittadini. Ultimissima notizia da EU News, che la ONG Medici Senza Frontiere non vuole, rifiuterà, non prenderà più i fondi europei in segno di protesta contro le politiche migratorie dell'Unione Europea. Un cenno all'altro grande tema che trattiamo sempre, della migrazione, era doveroso farlo. L'ultima era però questa l'ultima segnalazione. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.